Letture di Radio 24. Nonostante sia risaputo che dormire poco fa salire il rischio di essere sovrappeso e aumenta le possibilità di problemi cardiaci, il 60% degli adulti continua a non dormire abbastanza. Spesso nella convinzione che dormire sia tempo perso, sottratto alla lista infinita di cose da sbrigare, ognuna delle quali ritenuta più importante del tempo da dedicare al riposo. Alcuni studi recenti dicono che dormire poco sia il segreto degli uomini di successo, ma in realtà è proprio il tempo dedicato al sonno che ci aiuta poi ad essere migliori sul lavoro e a raggiungere più obiettivi, come spiega Arianna Huffington nel suo libro The Sleep Revolution, dal quale Repubblica anticipa alcuni stralci. Abbiamo una crescente consapevolezza sia della crisi da privazione del sonno che del ruolo centrale che il sonno occupa nella nostra vita. Un numero sempre maggiore di medici, esperti di benessere e guru dell'efficienza ci offrono soluzioni, mentre i leader di ogni settore si rendono conto sempre più spesso che un dipendente ben riposato è un dipendente migliore. Nello sport, così come nella scuola, nella salute e sul posto di lavoro, il sonno sta finalmente iniziando a riconquistare la considerazione e il rispetto che merita. Tuttavia, se vogliamo davvero restituire al sonno il ruolo che gli spetta, dobbiamo guardare oltre agli strumenti e alle tecniche. Riuscire a fare qualcosa di così naturale come addormentarsi non dovrebbe richiedere l'ingestione cronica di pillole, né obbligarci a dichiarare ogni sera guerra a tutti gli schermi, i cibi e le attività che si frappongono tra noi e una bella dormita. Occorre piuttosto partire da qualcosa di tanto semplice quanto profondo, ovvero domandare a noi stessi che tipo di vita vogliamo, cosa è davvero importante per noi, cos'è che dà un senso alla nostra esistenza. E se non è possibile trovare due persone che rispondano ugualmente a queste domande, esiste invece qualcosa che tutti abbiamo in comune: la facilità con cui rimandiamo questa conversazione con noi stessi perché presi dalle scadenze quotidiane, intenti a perseguire la concezione che la società ha del successo e a inseguire cose che in seguito, magari, ci accorgeremo di non volere. Quando riduciamo la nostra realtà alle incombenze che ci attendono e la nostra vita diventa una lista infinita di cose da sbrigare, è difficile mettere tutto da parte e addormentarsi, entrando in contatto con qualcosa di più profondo. Per poterci lasciare alle spalle il mondo esterno, quando ci accingiamo ad andare a dormire, dobbiamo riconoscere che siamo più della somma delle nostre lotte, delle nostre vittorie e dei nostri fallimenti. Noi siamo immensamente più grandi del nostro curriculum. Aiutandoci a tenere il mondo nella giusta prospettiva, il sonno ci offre l'opportunità di rimettere a fuoco l'essenza di ciò che siamo, creando un luogo intimo in cui le paure e le preoccupazioni svaniscono. Viviamo in un mondo che esalta il fare. Chi siamo dunque quando non facciamo nulla? Se smettiamo di inviare email o SMS o di pianificare, di darci da fare, cesseremo forse di esistere? Certo, possiamo tentare di dormire di più senza porci queste domande esistenziali. Ma per sfruttare al massimo quel terzo della nostra vita che dovremmo trascorrere addormentati e raccogliere tutti i benefici che il sonno offre in termini di salute, lucidità di pensiero, capacità decisionali e impegno, occorre riflettere e ridefinire l'ordine delle priorità. Cercate dunque di migliorare il vostro sonno, perché ciò vi renderà migliori sul lavoro. Ma continuate a migliorare il vostro sonno perché migliorerete la vostra qualità di vita. Perché il sonno è lo strumento che ci permette di distogliere l'attenzione dai problemi terreni per avvicinarci ad una realtà superiore. Il sonno ci insegna anche a fidarci e a lasciarci andare. Ci viene detto e ridetto che dobbiamo lavorare di più, che non dobbiamo mai abbassare la guardia né smettere di lottare, e quindi lottiamo anche contro il sonno. O ci preoccupiamo della nostra incapacità di controllarlo e di costringerlo a sopraggiungere quando ci conviene, con uno schiocco delle dita. Tornando a impossessarci del sonno, riprendiamo possesso di ciò che da sempre offre all'umanità, una via per accedere alla sacralità e al mistero della vita. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Arianna Huffington, Dormire bene e di più, ecco perché il sonno può cambiare la vita e portare al successo, dalla Repubblica del 20 giugno. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. Sono passati 7 anni dalla scomparsa di Michael Jackson, ma c'è ancora chi cerca di infangare il suo nome rievocando le passate accuse di pedofilia. Ultime in ordine di tempo, le notizie diffuse nei giorni scorsi dal tabloid Radar Online, che parlano del presunto ritrovamento di materiale pedopornografico nel computer del cantante. Notizie prive di ogni fondamento, scrive Gabriele Antonucci su Panorama. Dato che già nel 2005 c'è stata una piena assoluzione per tutti i crimini e la Corte di conseguenza si è già espressa su tutto il materiale sequestrato. A pensar male si commette peccato, ma ci si sbaglia raramente, sosteneva Giulio Andreotti in uno dei suoi aforismi più acuti. Ed è difficile non pensare male quando a pochi giorni dal 7° anniversario dalla morte di Michael Jackson e al quasi raggiungimento delle firme necessarie di una petizione mondiale in suo onore su change.org per riconoscerlo come icona culturale e filantropica americana, sono iniziate a circolare sui media internazionali, e quindi italiani, delle accuse infamanti quanto infondate sul re del pop. Purtroppo, nell'era del clickbaiting e dell'informazione digitale, è più facile fare copia e incolla di una notizia di un discusso tabloid americano, il Radar Online, che verificare le fonti e approfondire una questione delicata riguardante una persona morta che in quanto tale non può più difendersi. Riassumendo, il Radar Online, giornale scandalistico americano che si occupa più di gossip che di giornalismo, ha riportato la notizia del ritrovamento di fantomatici nuovi file dal computer di Michael Jackson e più in generale di note, diari, documenti, fotografie, audio e video da cui emergerebbe che l'artista fosse un manipolatore, dipendente da sesso e droghe, che usava la violenza, il sesso esplicito e i sacrifici animali per attrarre i bambini. Possedeva anche delle immagini impressionanti e disgustose di bambini nudi e torturati, adulti nudi e donne in posizioni sadomaso. Notizie che appaiono manifestamente infondate, in quanto tutto il materiale sequestrato nel corso degli anni dalla sua casa è già stato considerato nel processo cui fu sottoposto Jackson a Santa Maria, California, nel 2005. Il risultato fu un inequivocabile verdetto di innocenza relativamente a tutti i 14 capi di imputazione a suo carico. Per usare un linguaggio a noi familiare, Michael Jackson è stato assolto con formula piena da tutte le accuse di pedofilia. Nel 2004, tutti e 18 i PC sequestrati nella sua casa di Neverland sono stati minuziosamente setacciati dall'FBI, indagine da cui non risulta che sia stato trovato nemmeno un solo file compromettente. Nello stesso anno, il distretto di Santa Barbara ha reso pubblico tutto il materiale ritrovato al ranch di Jackson su un sito internet, visibile a tutti, media compresi, e consultabile in qualsiasi momento. In sostanza, non c'è nessun nuovo materiale, a meno che l'artista non sia tornato nel frattempo dall'aldilà per sbirciare immagini shock sul suo PC, il che è alquanto improbabile. Ma facciamo un salto indietro nel tempo, al 1993, per capire meglio come sia nata la leggenda metropolitana della supposta pedofilia dell'artista. Una brutta storia che si è autoalimentata nel tempo di veleni, sospetti e falsità, fino a distruggere di fatto la sua reputazione e di conseguenza la sua carriera. Jackson fu accusato per la prima volta nel 93, all'apice del successo, da un tredicenne, tale Jordan Chandler. Allora, le intercettazioni telefoniche rivelarono subito che il padre del ragazzino, un ex dentista radiato dall'albo per pratiche illecite, aveva pianificato tutto per vendicarsi del cantante, che si era rifiutato di finanziargli un progetto cinematografico. L'uomo, che si è suicidato nel 2010, probabilmente spinto dai sensi di colpa, era arrivato perfino a somministrare a suo figlio l'amobarbital, un barbiturico con proprietà ipnotiche, per farlo confessare davanti ai giudici. Allora ci fu un accordo extragiudiziario con la famiglia, di cui in seguito lo stesso Jackson si pentirà, versando un assegno da 22 milioni di dollari per chiudere in fretta la questione su pressione della sua casa discografica, che non voleva ripercussioni sul tour in corso di Jackson. L'avvocato dell'artista, Tom Meserow, ha confidato: «È vero che per lui erano spiccioli, ma fu un errore gravissimo. Creò un precedente e qualcuno deve aver pensato: perché lavorare se si possono estorcere quattrini a Jackson? Michael fu consigliato male dal suo staff, la cui unica preoccupazione era quella di perdere somme di denaro, magari essere costretti ad annullare gli spettacoli per via del processo». Ancora più infamanti le accuse rivolte anni dopo da Gavin Arvaiso, un tredicenne che Jackson aveva aiutato a guarire dal cancro. Arvaiso accusò il re del pop di abusi sessuali sull'onda dell'eco mediatica creata dallo speciale televisivo Living with Michael Jackson del giornalista britannico Martin Bashir, andato in onda il 3 febbraio. Un perfetto esempio di cattivo giornalismo nel quale, con un sapiente taglia e cuci di immagini e di spezzoni di interviste, fu messo in cattiva luce l'ex bambino prodigio dei Jackson 5. Il processo iniziò il 31 gennaio 2005 e terminò il 13 giugno dello stesso anno, quando la giuria emise un verdetto unanime di non colpevolezza per tutti i 14 capi d'accusa. La notizia dell'assoluzione di Jackson fu data dai media in modo fugace. Per loro è sempre stato colpevole e, a quanto dimostrano gli ultimi accadimenti, lo è tuttora. Michael Jackson, che ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti delle fantasiose ricostruzioni giornalistiche sulla sua vita privata nella corrosiva tabloid Junkie, ha dichiarato: «La tecnica che usano i giornali è molto semplice. Se continui a raccontare una bugia assurda, il lettore a un certo punto comincerà a pensare che sia vera». La giornalista Aphrodite Jones seguì il processo per conto della Fox. Riteneva anche lei colpevole il re del pop, ma in seguito cambiò idea e scrisse nel 2007 un libro dall'inequivocabile titolo Il complotto. Quando in quell'aula, rivela la giornalista, il giudice pronunciò per 14 volte non colpevole, guardai Jackson in faccia e mi rese conto che la sua espressione era quella di un uomo grato, soddisfatto che giustizia fosse stata fatta, perché non era colpevole. Lì cambiai idea. Il cantante, pur sollevato da quelle terribili accuse, ne uscì distrutto dal punto di vista psicologico e artistico. Quelle che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Gabriele Antonucci, Michael Jackson, la verità sui file del computer, pubblicato il 22 giugno sul sito di Panorama. La postura che assumiamo durante un colloquio di lavoro non influisce solo psicologicamente sulle possibilità di successo, ma anche fisicamente. Posing for power, che vuol dire assumere posizioni di potere per farti assumere in posizioni di potere. Se vai a un colloquio di lavoro e cerchi di scomparire sulla sedia, tieni le braccia conserte, stringi le mani tra le cosce o addirittura finisci per abbassare il mento e toccarti la faccia, errore pare irrimediabile, nessuno penserà che potresti essere tu, la persona giusta. Fin qui tutto più o meno noto. Non a caso, Sheryl Sandberg, per motivare le donne, usò la formula del leaning in, sporgersi, farsi avanti. Ma il vero punto, che folgorò milioni di utenti già nel 2012 grazie a una TED Talk della psicologa sociale Amy Cuddy, è che il linguaggio del corpo non modifica soltanto la percezione degli altri. Una postura di forza rispetto a una remissiva finisce per influire sui livelli di testosterone e cortisolo nel tuo cervello. Nelle diapositive che illustrano le riflessioni di Amy Cuddy, vedi nettamente come in pochi minuti si alzi di oltre il 10% la colonnina del cortisolo, stress, nella testa della signora che si propone quasi contrita al suo interlocutore giudice. Mentre la versione spavalda, in piedi, mani sui fianchi, testa alta, vede salire l'indice testosteronico del 20%. Sommando le due cifre, si arriva a un'oscillazione del 30% di chance di successo o insuccesso. Evidente che vorremmo cambiare tutto questo, liberare i colloqui di lavoro come il linguaggio dei corpi, giudicare e amare le persone solo per quello che dicono e sono. Ma, nel frattempo, come la mettiamo? Anzi, come ci mettiamo, seduti, la prossima volta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Barbara Stefanelli, Colloqui al testosterone, da Io Donna del 18 giugno. Cosa succede quando si dice una mezza verità? Ci si sente peggio di quando si dice una bugia intera. Lo sostengono alcuni ricercatori delle università Carnegie Mellon, Stati Uniti, e Ben Gurion, Israele. In uno dei loro esperimenti, 719 volontari dovevano prevedere il risultato di 10 lanci virtuali di una moneta su un sito web, con la promessa di 10 centesimi per ogni risposta azzeccata. Il 43% barò, attribuendosi più previsioni corrette, e solo il 24% di loro poi lo ammise. Tra questi, il 44% confessò però solo parzialmente, ammettendo meno errori di quelli reali. Erano quelli a cui restava lo stato d'animo peggiore. Le mezze verità hanno infatti solo ripercussioni negative, perché non alleviano i sensi di colpa come una confessione completa. E questo era l'articolo «Cosa succede quando si dice una mezza verità?» dal numero di giugno del mensile Focus. Mentre da tutta Italia si moltiplicavano gli omaggi a Giorgio Albertazzi, scomparso lo scorso 28 maggio, c'era anche chi si divertiva a insultarlo. L'ISREC, l'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza, un ente che beneficia di finanziamenti pubblici, a quanto pare non ha perdonato al celebre attore il suo passato da militante della Repubblica Sociale, ma ha invece dimenticato con facilità le centinaia di delitti e stupri commessi dagli ex partigiani nel dopoguerra. Sul sito dell'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea fa mostra di sé una critica post-mortem a Giorgio Albertazzi, che lascia senza parole, fin dal titolo, Un bastardo che ci lascia. Ecco il testo. Increduli e sgomenti per gli elogi e il cordoglio che si alzano, anche da parte delle più alte cariche dello Stato, in occasione della morte dell'attore Giorgio Albertazzi, vogliamo ricordarne la figura di milite dell'attagliamento, di feroce rastrellatore di partigiani e civili, dal Grappa alla Valcamonica. In occasione dell'anniversario delle bombe di Piazza della Loggia, ci pare doveroso sottolineare che quella orribile strage è opera dei figli e nipoti di quella splendida figura di italiano che in questo smemorato paese si tende ad onorare. Che ognuno, per favore, pianga i suoi morti. Il testo è firmato dagli organi direttivi dell'Istituto, inserito in quella rete di istituti per la storia della Resistenza che rappresenta, grazie anche a finanziamenti pubblici, la maggiore struttura nel campo della ricerca storica al di fuori dell'università. Si tratta di istituti impegnati anche in varie attività educative, dall'aggiornamento degli insegnanti a iniziative nelle scuole, mostre, convegni, eccetera, ma non si capisce quale mai attività educativa possa svolgere un istituto come quello bergamasco. Il punto non è ovviamente che si ricordi il fatto che il ventenne Albertazzi, come altri suoi coetanei, avesse servito nelle formazioni della RSI. Le guerre civili, è perfino banale ricordarlo, sono tali appunto perché esistono due schieramenti che ferocemente si affrontano. E spesso, come fa dire Calvino a un partigiano nel romanzo Il sentiero dei nidi di ragno, basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell'anima e ci si trova dall'altra parte. Ciò che è inqualificabile, piuttosto, è che un'istituzione che dovrebbe essere volta ad attività educative e di ricerca possa produrre un testo improntato all'odio, come quello citato. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Giovanni Bellardelli, Albertazzi, quell'odio incivile dell'Istituto Partigiano, dal Corriere della Sera, del 18 giugno.